Quiero conocerte. Posso conoscerti. Amor a primera vista. Amore a prima vista. Eres linda. Sei carina. Eres hermosa. Sei bella. Eres encantadora. Sei graziosa. Tienes lindos ojos. I tuoi occhi sono bellissimi. Quiero conocerte mejor. Vorrei conoscerti meglio. ¿Quieres bailar? ¿Vuoi ballare? Acompáñame. Vieni con me. Te espero. Ti aspetto. ¿Tienes? Sei. Tengo. Sono. No tengo. Non sono. Novio. Fidanzato. Novia. Fidanzata. Esposo. Marito. Esposa. Moglie. Me gustas. Mi piaci. Estoy loco por ti. Sono pazzo di te. Acércate. Avvicinati. Acércate más. Vieni più vicino. Dame un beso. Dammi un bacio. Dame un abrazo. Dammi un abbraccio. Te necesito. Ho bisogno di te. Te extraño. Sento la tua mancanza. Te amo. Ti amo. No puedo vivir sin ti. Non posso vivere senza di te. Cásate conmigo. Vuoi sposarmi? Casémonos. Sposiamoci.